seul arrive à Denison. Ove dulce, veni più s'escur. El vent che parlava con la voce di tambur. Ove dulce, veni più s'escur. El vent che parlava con la voce di tambur. Sono scappato e ho due ai miei cento conti faccio.